Dare una lettura di elezioni amministrative è sempre più complicato che per altre elezioni, perché per due ragioni, sostanzialmente ci sono dinamiche locali che spesso giocano un ruolo importante, gli amministratori sono molto più vicini e molto più fisicamente vicini, direi, rispetto a dei deputati europei, a dei consiglieri regionali o a dei senatori. La seconda ragione è che molto spesso, specie quando si tratta di città o di paesi più piccoli, le liste che si presentano sono liste di unione in cui è difficile vedere dal livello nazionale quali sono i partiti che vi hanno partecipato e quindi quali sono le coalizioni che hanno vinto. Però alcune cose si possono dire sul voto francese, anzi in realtà ci servono molte indicazioni che vengono da quel voto lì. Una cosa che appare evidente è l'enorme astensione che ha colpito questa volta anche le elezioni amministrative. Elezioni amministrative che in genere hanno visto una partecipazione molto maggiore rispetto alle altre elezioni, proprio perché molto spesso partecipano persone che si conoscono, che si sono conosciute, che si sono, diciamo, passatemi il termine, toccate concretamente. A quanto pare da alcune ricerche sembra che il 60%, il 65%, i 2/3 di questa astensione sia dovuta a ragioni sanitarie, cioè sostanzialmente la gente non si fida, non si sente sicura ad andare a votare e con qualche ragione perché il primo turno delle amministrative si era fatto in marzo, l'epidemia è già cominciata, con una de decisione che apparve anche allora un po' insensata, tanto che alcuni sindaci eletti al primo turno, a marzo non presero possesso della carica perché morirono prima a causa del virus. La seconda cosa che emerge chiaramente è che i partiti storici sono ben lontani dall'essere finiti. Se si guardano il risultato delle elezioni nazionali del 2017, la destra, il partito della destra e i repubblicani erano arrivati a un risultato bassissimo a causa di uno scandalo finanziario, intorno al credo 14, 15, 16%. I socialisti pure hanno fatto il peggior risultato di sempre, intorno all'8-9%. Insomma, c'era l'impressione che stessero avanzando partiti nuovi. Le elezioni amministrative smentiscono tutto questo. I partiti storici sono ben radicati, la maggior parte delle città sono state vinte proprio da socialisti, dai repubblicani, dai comunisti, dai verdi, mentre i partiti nuovi come il Rassemblement National di Marine Le Pen o la République en Marche di Macron sono in crisi. Partiamo da questi. Diciamo che se si vuole dare un giudizio globale delle elezioni, tendenzialmente direi che ha vinto la sinistra. La sinistra si è fermata in alcune grandi città, prima di tutto Parigi, che poco più di un anno fa era data sicuramente per persa, invece al ballottaggio la sindaca Hidalgo ha vinto con oltre il 50%, ma anche in tante altre città. Un'altra che emerge è Bordeaux, una città storicamente conservatrice, profondamente conservatrice mi viene da dire, che questa volta ha lasciato, dopo credo 73 anni, il voto a destra per passare ai Verdi. Ma è l'altro dato estremamente, estremamente positivo per la sinistra, è il voto a Marsiglia, una città in cui anche quella votava a destra ormai da oltre 25 anni, in cui ci sono stati sospetti di truffe a livello elettorale che avrebbero potuto cambiare il risultato. Invece la lista Primavera Marsigliese è riuscita e che univa vari componenti della sinistra, tra cui socialisti, verdi e comunisti, è riuscita a strappare la città alla destra. Diciamo appunto che sostanzialmente si è visto tendenzialmente una sinistra che avanza. I socialisti hanno mantenuto molte delle città che possedevano già prima, c'è stata una fortissima avanzata dei Verdi e c'è stata una buona tenuta dei comunisti che sono riusciti anche a riguadagnare alcune città, diciamo, conosciute come rosse che negli anni erano state perdute. Molte città di media e piccola dimensione, ma che fanno sì che i comunisti in Francia rappresentino la terza forza politica in numero di eletti. Già al primo turno c'era stato oltre un migliaio di eletti di consiglieri comunali comunisti, con questa seconda tornata se ne aggiungono qualche altro centinaio. Alcune città, purtroppo, c'era una città simbolo dei comunisti che non è riuscita a essere stata riconquistata, la città di Le Havre, che era un po', diciamo, la Bologna per i comunisti francesi e in cui si presentava il presidente del Consiglio, che anche grazie probabilmente a una gestione moderata e attenta, tutto sommato, della crisi sanitaria, è riuscita a conservare e a rimanere quindi al contempo sindaco e presidente del Consiglio. L'altra cosa che spicca è sono tre partiti che sono totalmente in crisi in queste elezioni qui. I repubblicani di Macron, un dato salta agli occhi, la candidata sindaca a Parigi non entra neanche in consiglio comunale. L'ex Front National, ormai Rassemblement National di Marine Le Pen, che guadagna una città medio grande come Perpignan, che fa oltre 100.000 abitanti, ma ne perde molti altri, tanto che a questo turno qua ha presentato il 30% di liste in meno rispetto al 2014. E l'altra formazione estremamente in crisi a livello locale è la formazione di Mélenchon, cioè tanto più Mélenchon, tanto più la sua lista si allontana dai fari dei media nazionali e tanto più viene evidenziata la mancanza di legami sociali. Ci sarebbe molto altro da dire, diciamo che se vogliamo riassumere queste elezioni qui, si vede un ritorno delle formazioni storiche francesi, soprattutto quelle di sinistra, a partire dai Verdi che grazie alla loro avanzata riconquistano molte città perse dalla sinistra e ci sono molti molti sindaci verdi, un exploit che segue un po' quello che è avvenuto alle europee. Si dovrà vedere che effetto avrà questo sul governo nazionale. Qui non è possibile che il governo cada per come è fatta, diciamo, la Costituzione francese, estremamente rigida da quel punto di vista, ma da qui a qualche anno, già l'anno prossimo, si dovrà votare per le regionali, ci saranno quelle, diciamo, il corrispettivo delle elezioni provinciali e soprattutto si guarda già alle prossime presidenziali. Un partito come quello di Macron, che non riesce a guadagnare quasi nessun sindaco e sicuramente nessun sindaco delle grandi città, difficilmente potrà rappresentare un'alternativa politica per i francesi quando si dovrà parlare di una rielezione del presidente.